Summertime di Elisabetta Fiorito. I nostri incantesimi ormai sono finiti. Noi siamo della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni e la nostra breve vita è circondata da un sonno. Signore, io sono afflitto. Farò due passi per acquietare la mia mente turbata. E buon pomeriggio. Quest'oggi noi ci occupiamo di Shakespeare. Come avete riconosciuto, quello è Prospero. Il Prospero che ci ricorda che noi esseri umani, sì, siamo esseri umani, ma quando abbiamo di fronte un palcoscenico abbiamo anche di fronte un sogno. E per vivere in modo migliore questo sogno noi dobbiamo andare al Festival Shakespeariano, sì, proprio quello dell'estate teatrale veronese. Gianpaolo Savorelli, il direttore del festival, è con noi per spiegarci quello che succede fino al 17 luglio, da oggi, al Teatro Romano di Verona. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Va in scena La Tempesta di Shakespeare, considerato il suo testamento, l'ultimo grande testo scritto dal bardo. È un testo che noi abbiamo rappresentato, direi, poche volte nella storia del Festival Shakespeareano, che ha 62 anni, è il più antico d'Italia, il secondo in Europa dopo quello di Strefford on Avon, e quindi insomma ha alle sue spalle, direi, un patrimonio shakespeariano importante e unico in Italia. Quest'anno con La Tempesta realizziamo un gemellaggio con Roma, con il Globe Theatre diretto da Gigi Proietti, e mettiamo in scena insieme questa tempesta con protagonista, direi, il più grande attore shakespeariano che abbiamo oggi sulla scena, che è Giorgio Albertazzi. Che è la prima volta che recita Prospero, nei panni di Prospero. È la prima volta, lui ha una grande esperienza shakespeariana, nel senso che anche sul nostro teatro, il Teatro Romano di Verona, ha interpretato personaggi shakespeariani molto importanti. Ultimamente sono in Ottime Estate, prima ancora nel Mercante di Venezia e poi in Amleto, eccetera. Però Prospero non l'aveva mai affrontato, è la prima volta in assoluto. Penso che sia una grande abbinata Albertazzi Prospero, che sia perfettamente nella parte, e penso che verrà fuori un grande spettacolo. Daniele Salvo, regista della Tempesta, ma collabora anche con Proietti al Globe Theatre di Roma, la programmazione che ricordiamo in questi giorni ha in scena I Due Gentiluomini di Verona. E noi vogliamo chiedere che cosa vuol dire dirigere un attore come Albertazzi, un mattatore. Buongiorno a tutti. Intanto è un privilegio, perché Giorgio ha un'esperienza eccezionale, quindi la cosa bella di questo incontro è che è anche un incontro umano, oltre che un incontro artistico, quindi un incontro fra generazioni, fra due generazioni diverse. Io ho 40 anni, Giorgio ha un'altra età, ed è una cosa meravigliosa, perché ci sono dei momenti, delle prove in cui ci si incontra umanamente, profondamente, e poi questo poi si riverbera in scena, e questa è una cosa eccezionale, e a volte non succede così tanto con un attore giovane, che magari invece è preso da ansie di protagonismo, da cinema, da cose, eccetera, eccetera. Invece Giorgio è un grande maestro ed è uno di quegli attori, insomma, di cui adesso ci sarebbe bisogno, ci sarebbe bisogno di più attori di quel tipo. Noi siamo stati anche abituati a delle regie abbastanza fantasiose, no? Rimase nella memoria, è rimasta nella memoria di tutti gli italiani la regia di Strehler al Piccolo. Questa regia invece com'è? Una regia più tradizionale, più innovativa? Perché su Shakespeare sempre si gioca in queste due grandi tendenze, quella della tradizione e l'innovazione. Beh, direi che, se posso usare un aggettivo, direi visionaria, perché in scena, diciamo, intanto sicuramente molto filologica, quindi molto fedele al testo, molto fedele anche nei costumi, molto, molto filologica, molto aderente alla scrittura, anche perché a me non piace molto il tradimento, lo stravolgimento, e certamente, insomma, tutto lo spettacolo è immerso in un'atmosfera di sospensione e di poesia, di rarefazione poetica, appunto, e la fantasia è la protagonista, naturalmente, di ciò che si vede in scena. Insomma, ogni passaggio, ogni immagine è curata in un certo modo, insomma, in modo abbastanza approfondito, proprio per dare allo spettatore un'emozione, per trasportare lo spettatore, cercare un aggancio emotivo forte con lo spettatore, che è un po' sempre la cifra dei miei lavori, anche perché io sono convinto che oggi è necessario sì una forma di teatro alta e, come dire, anche complessa, però accessibile allo spettatore comune, allo spettatore medio. Questo non vuol dire abbassare la qualità, anzi forse alzarla ancora di più, ma renderlo fruibile, rendere accessibile tutto quello che si fa. Quindi è importante però rispettare il testo, anche perché sì. Se Shakespeare è sopravvissuto quanti anni? 400? Allora noi, chi siamo noi per stravolgerlo? Gianpaolo Savorelli, noi ci occuperemo sempre di questo festival shakespeariano, non solo oggi, perché poi il 21 ci sono le Allegre Comari di Windsor con Leo Gullot e la regia è di Fabio Grossi, e poi però avete anche dal 28 al 31 luglio Carlo Goldoni nel Bugiardo, giusto? Quindi vi allargate, non solo Shakespeare, ecco. Sì, è una tradizione che accanto a Shakespeare qualche anno si affianchi anche Carlo Goldoni, che è il più grande drammaturgo italiano, veneto fra l'altro, quindi Verona era giusto che rendesse omaggio anche a Carlo Goldoni. Quindi dopo la grande poesia della Tempesta, il grande divertimento della Allegre Comari di Windsor, considerata la commedia più sdiavolata e divertente di Shakespeare, passiamo ad un altro tipo di divertimento, ma altrettanto sicuramente godibile, con Marcello Bartoli, Dario Cantarelli, nel Bugiardo appunto di Goldoni. Quindi tre proposte differenziate per un pubblico che può andare a vedere tutte e tre, ma essere anche attratto solo dal divertimento oppure dalla grande poesia, come ci sarà questa sera al Teatro Romano con La Tempesta. Allora, l'appuntamento è ovviamente alle 21 al Teatro Romano di Verona. Daniele Salvo, esiste più quest'Italia in cui tutti naufragano? Beh, mi pare che esiste come, perché purtroppo non viviamo in tempi felici, soprattutto per la cultura, per il teatro, e quindi certamente la situazione italiana, al di là dei discorsi, come dire, partitici, politici, eccetera, è una situazione molto difficile, è un po' anche una deriva umana piuttosto forte, insomma. Le priorità, mi pare, insomma, siano piuttosto basse, insomma, non sono, la preoccupazione non è più appunto la poesia, la cultura, che è la caratteristica del popolo italiano, è sempre stata questa, insomma, almeno fino al Rinascimento. Insomma, siamo in mezzo alla tempesta, per dirlo alla Shakespeare. Tempesta, sì, Teatro Romano Verona si apre oggi fino al 17 luglio il 62esimo Festival Shakespeariano. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Hay un lorito con su monito, que es un regalo de San Benito para la fiesta de los negritos. Hay un lorito con su monito, hay un lorito con su monito, que es un regalo de San Benito para la fiesta de los negritos. Gli anni a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, quando un gruppo di esuli cileni, gli Inti Illimani, sbarcarono in Italia e ci sono rimasti per tanto tempo, per poi ritornare in Cile e adesso ritornare di nuovo in Italia per un tour. Buon pomeriggio a Jorge Culón Larrañaga, giusto? Larrañaga. Quanti anni Salve. Siete stati in Italia? Siamo stati 15 anni. 15 anni dal Cile, perché c'era la dittatura. Eh sì, fino all'anno 88. 88, poi siete ritornati in Cile. Sì, sono già 22 anni che siamo qui. Come passa il tempo. Come passa il tempo, siete già ritornati da tanto tempo. Sì. E vi manca un po' l'Italia. Voi eravate a Roma? Vivevate a Roma? Eravamo a Roma, sì. Io abitavo lì vicino al Colosseo. Vicino al Colosseo. E vi manca un pochino l'Italia oppure adesso... state meglio in Cile e non vi manca più? No, guarda, manca sempre tanto. Poi abbiamo fatto una vita qua, io ho tre figli nati in Italia, allora non è che si può tagliare così. sono un esiliato adesso anche in Cile. Un esiliato italiano in Cile. Adesso voi proponete in questo tour in Italia i vostri vecchi successi. Beh, i vecchi successi, ma anche quelli di un gruppo che continua a vivere, perché sennò diventeremo come le mummie. Come le mummie. E c'è un nuovo progetto che si chiama Folk and People, no? In cui sì. Si mettono in risalto le radici di musica e cultura diversa. Allora, come gli Intilimani hanno, diciamo così, captato la nostra cultura italiana della musica e come l'Italia ha captato la cultura sudamericana, un po' così? Beh sì, penso che siano tutti fiumi che si alimentano gli uni agli altri, diciamo. Noi latinoamericani siamo debitori da una parte alle nostre culture originali, ma anche alle influenze europee, alle influenze africane, di tutto, e a sua volta penso che oggi la musica in Europa sta guardando molto dalle nostre parti. Allora, voi iniziate questa sera ad Ancona, al Parco Verde di Via Montessori, e sì. Poi andate il 17 a Malego, in provincia di Brescia, al Festival Abbraccio Mondo, poi il 18 sarete a Mantova, a Pordenone il 23, il 24 sarete anche a vicino a Varese, insomma tantissime... Il 26 faremo un grande concerto alla Spezia con i Modena City Ramblers. Ecco, quindi insomma questa è proprio l'unione di due culture. Qual è la canzone che ha segnato un po' i vostri 15 anni, quasi 15 anni in Italia? Che cosa vi ricordate della canzone italiana di quel tempo? Per me è difficile scegliere una canzone, ma se dovessi scegliere forse direi Piazza Grande. Ah, Piazza Grande di Lucio Dalla. Allora, noi ringraziamo Jorge Culón Larrañaga degli Intilimani, grazie di essere intanto tornato in Italia. Ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 al Festival Stand by Rock di Parco Verde, via Montessori ad Ancona. Grazie Jorge. Grazie. Ah, un'ultima domanda, ma è cambiata l'Italia in questi 20 anni? È cambiata tanto, anche noi. Meno male, grazie. Ciao. Summertime. E noi ci spostiamo a Cagliari, sì, al Teatro Civico in Castello, perché questa sera chi si sente un po' con lo spirito romantico, un po' poeta, può proprio assistere alla Notte dei Poeti, un festival che dura fino al 29 luglio. E questa sera c'è proprio un canto per Ecuba, da Euripide a Christa Wolf, dalla tragedia greca agli odierni romanzieri tedeschi. Valeria Ciabattoni è il direttore artistico del festival. Buongiorno, buon pomeriggio. Buongiorno, grazie a voi altrettanto. Allora, cosa succede a Cagliari in questi giorni fino alla fine di luglio, 15 giorni di kermesse, di cosa? Sì, succederanno tante cose, tanti begli appuntamenti, e intanto devo dire che la 28esima edizione di questo festival, che insomma quindi è un vecchietto, noi abbiamo cercato di rinnovarlo anno dopo anno, speriamo di esserci riusciti anche quest'anno. Siamo al Teatro Civico a Cagliari, cambiamo un po' lo spazio perché normalmente il festival nasce e vive nell'antico Teatro Romano di Nora, in un sito archeologico bellissimo. Debuttiamo stasera con un canto per Ecuba, con una bravissima interprete che è Caterina Vertova e la regia di Giancarlo Bisci. Seguiranno degli altri appuntamenti tra la prosa, la danza, le performance. Un attimo, adesso intanto concentriamoci su questa sera, poi direttore non ci lasci perché parleremo anche degli altri appuntamenti. Vada all'ospite Tracio e digli: Ecuba, l'antica regina di Troia, desidera parlarti. Isa Danieli che interpreta Ecuba, ma come sappiamo questa sera Ecuba verrà interpretata da Caterina Vertova. Buon pomeriggio Caterina. Ciao, buon pomeriggio a voi. Allora, che cosa vuol dire interpretare un personaggio così poliedrico e soprattutto che ha attraversato i secoli, oseremo dire, no? Mi viene da ridere un po', mi viene un po' da ridere, nel senso che vuol dire tutto, vuol dire un'ennesima opportunità per una persona che fa questo mestiere di accostarsi a dei temi grandissimi, dei temi universali e dei temi di una contemporaneità assoluta, e quindi un'opportunità al femminile. In questo caso il tema per noi, anche per Biffi, il regista più importante, è quello della guerra, e non solo la guerra di armi, ma la guerra sociale, la guerra politica, e la guerra per quanto riguarda me invece, che vive all'interno, nell'anima di questa donna, che è una donna politica da una parte, regina e madre, fortemente madre dall'altra. Infatti questo conflitto fortissimo che la segue e con il quale si autodistrugge, ma creda, ecco, anche intanto cerchiamo di contestualizzarlo, perché magari non tutti ricordiamo: la tragedia di Euripide, si svolge la guerra, è quella di Troia, Ecuba è la regina di Troia e ha questo conflitto perché Achille ha chiesto, no, un sacrificio, una sorta di sacrificio, insomma non vogliamo svelare in tutto in questo momento il sacrificio, ma lei ha perso moltissimi figli sempre per causa della guerra, ma sai, per noi in questo caso con questa Ecuba è un'occasione per parlare anche di altri conflitti, di altre guerre che ci riguardano. Certo. Questa è la cosa più importante. Io amo molto la tragedia non quando è fissa là dove era, ma quando la possiamo utilizzare per farne roba nostra, che ci serva per comunicare alle persone. Allora lì mi sento anch'io un mezzo, no? Come attrice, perché sennò insomma siamo sempre un po' lì stampati su questo palcoscenico, su questo Euripide. Ma da lì prendiamo degli spunti straordinari, ti dico, universali, che ancora adesso funzionano. Adesso io questa sera vado in scena, adesso faccio sentire la voce della grande Isa Danieli, vado in scena con uno studio su Ecuba, nel senso che sono sicura che poi faremo anche lo spettacolo, abbiamo avuto poche prove, abbiamo provato 5 giorni, per cui, ma sono comunque sono personaggi così straordinari che se ti ci metti e gli apri le tue porte interiori ti danno tantissimo. Io sono sicura che anche stasera, pur essendo soltanto un work in progress, riusciremo a dare emozioni e immagini, credo, anche molto belle. E poi soprattutto il work in progress è anche molto bello per gli spettatori, perché si vede anche come si costruisce uno spettacolo. Ringraziamo Caterina Vertova, ricordiamo questa sera al Teatro Civico in Castello a Cagliari alle ore 21, Un canto per Ecuba, da Euripide a Christa Wolf. E torniamo a Valeria Ciabattoni, direttore proprio della rassegna La Notte dei Poeti di Cagliari, per vedere un attimo, dare proprio 2-3 appuntamenti. Vedo che il 18 luglio avete di Porè, da Sofocle, sì, a Pasolini, quindi ci sono proprio questi studi, no? Tra un po' il leitmotiv, tra la classicità, il testo classico e anche la contemporaneità, perché è lo scopo di questa edizione del festival, come dire, rifarsi al passato per parlare dell'oggi. Come diceva Caterina prima, i grandi temi classici che sono purtroppo ancora oggi, alcuni, per altri per fortuna, eterni, ecco. Quindi poi abbiamo addirittura il 22 avete Elio Germano in BAM Teatro Tom Paine Infinito, no? Sì. E poi Dal vapore ti scrivo di Mariangela Sedda il 29 luglio, insomma ci sono moltissimi appuntamenti, anche musicali vedo. Tutto quanto si svolge al Teatro Civico in Castello a Cagliari? Allora, gli incontri, i concerti e le performance si divideranno tra il castello, il teatro in castello, il ghetto, che è sempre nello stesso quartiere, nel centro storico di Cagliari, e il museo archeologico che ci accoglierà per fare un incontro curioso con la civiltà di Nora, ed è un chiaro riferimento alle nostre al luogo dove appunto è nato questo festival, che è appunto il Teatro Romano. mano di Nora. L'appuntamento è alle ore 21:30, Teatro Civico in Castello, stasera Ecuba. Grazie. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it oppure che potete riascoltare la puntata sul nostro sito www.radio24.it, nonché dare una scorsa agli appuntamenti per questa sera. E allora non mi resta che augurarvi una buona serata.